Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori per un'ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione appunto dedicata al mondo degli oratori targati Noi Associazione, che ogni settimana va in onda sulle frequenze di Blu Radio Veneto, ogni sabato alle ore 14 e alla domenica alle 12.30. Ma ricordiamo anche che se volete riascoltarne le puntate precedenti basta andare sul sito di www.bluradioveneto.it e cliccare sul podcast programmi, lì potete riascoltare la puntata che è andata in onda, così saprete appunto chi erano gli ospiti della settimana precedente. Abbiamo cercato di iniziare questa nuova edizione 2011-2012 con tante interviste, come è nostro solito, interviste appunto agli oratori, interviste ai responsabili che vi lavorano all'interno, interviste però che abbiamo iniziato anche con i presidenti territoriali delle realtà soprattutto di Treviso e di Venezia. Abbiamo incontrato nelle settimane precedenti anche una realtà padovana e una trevigiana, e anche questa settimana avremo come ospite una realtà che per la prima volta, sottolineo per la prima volta, sarà ai microfoni di Blu Radio Veneto all'interno di questo contenitore che si chiama appunto Fuori di Noi. Ahimè, purtroppo i microfoni sono solo io, Christian, perché appunto Betta, la mia compagna di viaggio, per qualche settimana purtroppo sarà diciamo presente in altri settori. Sapete appunto che la mia compagna di viaggio è anche impegnata nel settore dell'azione cattolica e quindi ahimè non ci potrà accompagnare in questo viaggio, ma la riprenderemo appunto in seguito. Quindi salutiamo Betta e auguriamo a lei un buon lavoro. E trasmissione dedicata ai progetti, alle iniziative che partono dagli oratori ma anche dai comitati territoriali. Qui ne ho davanti una che proviene dal comitato territoriale di Treviso e si chiama Lab Oratorio di Relazioni. È il secondo anno che il comitato territoriale appunto trevigiano promuove questi corsi di formazione per animatori di oratorio. E alcune date, alcuni diciamo incontri sono già stati realizzati quest'anno, ma tanti altri sono già in programma per il prossimo. A gennaio 2012, mercoledì 11, 18 e 25 a Noventa di Piave, e venerdì 13, 20 e 27 sempre di gennaio a Piombino Dese, e a Frescada mercoledì 1, 8 e 15 febbraio. La durata, allora, questi incontri di solito appunto sono tre e durano dalle 20.30 alle 22.30. Tanti sono i temi, diciamo, che vengono trattati con uno stile anche molto originale dai responsabili Francesco Zanon, Suor Michela Cusinato e Chiara Cavallaro. Alcuni appunto ve li posso tranquillamente annunciare: i nuovi adolescenti e i nuovi educatori animatori, la comunicazione come luogo della relazione, impariamo a litigare per aiutare a crescere, e infine il gioco in oratorio, potenzialità inesplorata. Sono occasioni queste che Noi Treviso promuove e cerca appunto di coinvolgere ragazzi e anche adulti che animano e vivono all'interno dell'oratorio, per rendere questo, diciamo, ambiente una proposta vera, una proposta concreta anche di formazione della persona umana e anche appunto come possibilità, occasione per animare non solo l'oratorio ma tutta la comunità parrocchiale attraverso appunto la realtà del circolo e del padronato, che sappiamo, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, è in continuo aumento. Per avere informazioni su questi lab oratori di relazione, se magari anche qualche realtà, diciamo, al di là di Treviso volesse in qualche maniera farli partire, lanciarli, organizzarli, basta appunto che mandi una email a info@noitreviso.it o contatti la segreteria territoriale allo 04 22 41 95 38. Lab Oratori di Relazione, e sulle relazioni appunto che noi continuamente cerchiamo di sfidarci con giochi, con tecniche nuove e soprattutto con l'animazione. E ricordo anche i nostri contatti. Beh, innanzitutto ringraziamo la regia di Eddie Daici, che anche questa settimana ci accompagna nel viaggio che stiamo per fare all'interno del comitato territoriale di puntini puntini, non lo dico ancora. E se volete appunto mandare un'email raccontando cosa state facendo di bello all'interno della vostra realtà, basta mandare un'email a fuoridinoi@libero.it. Come è abitudine appunto iniziamo questo, diciamo, primo momento, questa introduzione, questa ennesima puntata di Fuori di Noi con il primo brano musicale, un brano recentissimo di Sophie Ellis Bextor con Starlight. Hold a moment in time and look abbiamo iniziato la puntata di Fuori di Noi con Starlight di Sophie Ellis, Backstore, nuova canzone, nuovo singolo, nuova hit appunto che sta lanciando questa cantante, e abbiamo iniziato anche raccontando un po' un progetto che sta partendo, anzi è stato rieditato quest'anno per quanto riguarda Noi Treviso Associazione, cioè il corso per animatori di oratorio che si chiama Lab Oratorio di Relazioni. Ma andiamo al cuore del programma, e quindi è il momento di... I tempi sono ridotti, noi abbiamo questi 20 minuti insieme ogni settimana per raccontare una bella esperienza di oratorio, oratorio targato a Noi Associazione, e per la prima volta ai microfoni di Blu Radio Veneto, ma senz'altro all'interno del programma Fuori di Noi, abbiamo Don Alessandro da Trieste, è vero? Ciao! Ciao, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Trieste, bentrovati. Ecco, per la prima volta abbiamo la realtà Noi Trieste, appunto protagonista di questa puntata di Fuori di Noi. Innanzitutto presentati un pochettino, Don Alessandro, tu chi sei e all'interno del Noi di Trieste che ruolo svolgi? Io sono Don Alessandro, il mio cognome è Amodeo, ho 41 anni, sono a Trieste il cappellano del porto. Sono vicario in una parrocchia molto grande di periferia e tra le altre cose sono anche, ahimè, sì. presidente del Noi Trieste. Ecco, quindi Don Alessandro sei appunto il presidente, diciamo, di questa, del comitato territoriale di Trieste. Abbiamo sentito anche recentemente, c'eri anche tu all'assemblea nazionale, che in questi 10 anni il Noi è cresciuto molto, tante presenze, e una appunto penso anche una presenza abbastanza giovane è quella anche che tu rappresenti della tua realtà triestina. Quanti oratori, quante realtà ci sono nella zona di Trieste, e da quanto tu appunto svolgi questa, diciamo, ulteriore incarico di presidente di Noi Trieste? Dunque, a Trieste in questo momento abbiamo 11 circoli affiliati su un totale di... A Trieste la diocesi non è tanto grande, abbiamo 52 parrocchie. Sì. Però 11 circoli è già un numero molto buono per noi, siamo sugli 840 iscritti, sì, in totale per il Noi territoriale. Siamo nati, noi proveniamo da un'altra realtà che è stata la realtà dell'ANSPI, e successivamente siamo nati con il Noi. Quando il Noi è nato, noi abbiamo subito aderito al Noi, quindi siamo presenti a Trieste già da 10 anni. Quindi praticamente siete nati con il Noi appunto dal passaggio, come tutti noi abbiamo fatto appunto, dalla realtà dell'ANSPI, certamente, alla realtà del Noi. Allora, andiamo proprio nel vivo della questione. La domanda è questa, e vedendo un po' le realtà che tu appunto cerchi di seguire, di visitare, di incontrare, con cui appunto ti relazioni, ha ancora senso oggi parlare di circolo, di oratorio? Cioè, ha ancora senso investire tempo, risorse nella realtà oratoriale? Certamente ha senso, è il fondamento, perché all'interno dell'oratorio noi troviamo diverse componenti, troviamo i giovani, i ragazzi, le famiglie neocostituite, le famiglie più adulte che portano i bambini. È un veicolo importantissimo, l'oratorio è una palestra di vita, soprattutto per le nuove generazioni che oggi hanno tanti modelli, forse non modelli, cioè modelli errati. Ecco, l'oratorio che sta al passo con i tempi, che ha una programmazione, ha una vita associativa fondata naturalmente sul Vangelo, sulla parola di Gesù, sull'esperienza assieme ai sacerdoti, e per una città come Trieste un'esperienza veramente molto forte. Bene, Don Alessandro, allora immagino che anche voi abbiate iniziato appunto un nuovo anno sociale, come comitato territoriale di solito appunto comunemente si fanno delle assemblee, ci si ritrova e si parla un po' dell'anno che verrà. Allora, l'anno che verrà, l'abbiamo già detto, l'hai già detto anche tu, festeggerà, ricorderà questi 10 anni di Noi Associazione. Allora Trieste ha pensato di fare qualcosa, o meglio, al di là magari di una festa per ricordare questi 10 anni, avete già pensato di investire di più su certi settori piuttosto che altri, di lanciare nuove iniziative anche in base magari alle richieste di queste 11 realtà che voi seguite? Certamente, abbiamo iniziato una piccola cooperazione con l'azienda dei servizi sanitari, e all'interno di questa cooperazione abbiamo sviluppato quello che è il modello dell'educazione stradale, dell'educazione anche a, diciamo, a quello che può essere il divertimento dei ragazzi, a non esagerare con le bibite, con le bevande, ad una certa consapevolezza anche nel modo di stare, nel modo di vivere, nel modo di fare tardi alla sera. Ecco, siamo stati contattati dall'azienda sanitaria, abbiamo partecipato a delle assemblee con dei formatori, e questa è stata una delle cose più importanti che siamo riusciti a fare, perché non dobbiamo dimenticare che, essendo la realtà triestina una realtà molto piccola, siamo, per dire, in via di sviluppo, la volontà c'è tanta, però queste cooperazioni vedo che hanno già preso piede. Bene, benissimo. Una domanda, immagino appunto una realtà abbastanza, diciamo, circoscritta, tu potresti avere anche un po' il polso della situazione e anche appunto indagare un po' chi sono anche quelle persone che oggi animano questi oratori, cioè a Trieste ci sono giovani, ci sono adulti che cercano di seguire queste realtà, c'è una predominanza del settore, diciamo, più adulto, c'è una bella parte anche di giovani che gestiscono nel vero senso la parola un oratorio, sia dalle iniziative che dalla piccola tesoreria, cioè dalla piccola gestione di un bar alle iniziative. Com'è la realtà, diciamo, triestina? Chi sono i volontari, gli animatori di oratorio a Trieste? Allora, guarda, ti prendo un minuto in più sulla realtà triestina, perché è una realtà molto particolare ed è importante da capire. Bene. Gli oratori di Trieste sono gestiti esclusivamente da persone volontarie. Sono, molto spesso si appoggiano a dei cammini di formazione all'interno della Chiesa, uno per tutti può essere l'Azione Cattolica. Sono comunque percorsi e sono, diciamo, attraversati da tutte le fasce d'età, dove generalmente i ragazzi più maturi, come in tutti gli oratori, si sentono parte responsabile verso i ragazzi più piccoli, e quindi ne organizzano le attività, i centri estivi, ne organizzano le gite, le uscite fuori, come si suol dire, fuori porta. Perché ho sottolineato la parola volontario? Perché a Trieste, esclusivamente a Trieste, c'è una realtà parallela agli oratori, che sono i ricreatori comunali. Ah. Sono un luogo dove le persone possono andare, a bene o male, a fare quasi le stesse attività dell'oratorio. Ma qual è la grande differenza? Nel ricreatorio, che è una cosa ancora del retaggio austro-ungarico, quindi una cosa molto antica per la nostra città, nel ricreatorio tutti gli insegnanti sono insegnanti dipendenti del comune di Trieste, quindi stipendiati, e poi naturalmente non passa assolutamente, o meglio passa molto poco, il discorso della fede cristiana, che invece all'oratorio è fondamentale. Quindi l'esperienza dell'oratorio a Trieste è un'esperienza molto forte, perché chi decide di venire in oratorio fa una scelta ben precisa, potrebbe andare da un'altra parte, ma invece sceglie di dare la propria vita e il proprio tempo per un organismo che è all'interno della Chiesa, ed è, questo è molto importante. E sotto il segno anche della gratuità, del dono, che è una cosa secondo me da rivalutare, ed è importante anche comunicarlo ai giovani, alle giovani generazioni, che tante volte invece si sentono un po' sempre sul dare, avere. Ok, io do, ma dopo cosa ho in cambio? Invece la gratuità non si pone nemmeno questa domanda, si dà e si sparge senza limiti e senza, diciamo, confini. Questa è una cosa fondamentale, che è ovviamente originaria anche dai valori evangelici. Quindi mi hai già detto, mi pare, appunto, io volevo farti una domanda, se già collaborate appunto all'interno dell'oratorio con le realtà ecclesiali presenti, con l'Azione Cattolica o con qualche altro gruppo. Mi pare appunto che questa sinergia, questa collaborazione c'è e si vede perché tanti magari animatori vivono all'interno dell'oratorio e quindi sviluppano le proprie attività insieme, diciamo, con gli animatori un po' più adulti che gestiscono, diciamo, l'oratorio nelle fasi, nelle attività più comuni. Mi pare di capire così, no? Realtà ecclesiali già presenti all'interno dell'oratorio. Certo, assolutamente, sono proprio il motore vero, e l'oratorio trova perfettamente ragione di esserci, perché è quella parte della parrocchia che cresce, che si muove, e nello stesso tempo è una parte accogliente, perché il must dell'oratorio è quello dell'accoglienza innanzitutto, di cercare sempre di accogliere anche quelle situazioni più difficili, o di quantomeno situazioni che meritano un occhio di riguardo, ma l'oratorio è certamente capace di venire incontro anche a questa esigenza. Bene, don Alessandro, come incontrate le vostre realtà? Nel senso, avete per esempio dei consiglieri, degli incaricati a livello territoriale che vanno a visitare queste realtà? Avete incontri, diciamo, durante l'anno? Fate anche voi una festa, diciamo, per ritrovarvi tutti insieme una volta all'anno in occasioni particolari? Oppure? Noi, dunque, la realtà di Trieste è in ripresa. Questo che ci proponi tu è un po' il nostro obiettivo, un incontro generale. Diciamo una cosa, Trieste è una diocesi molto piccola, collima con la città. Quindi per noi, per dire, le persone che aderiscono a noi, che magari sono di altre di parrocchie diverse, noi abbiamo la fortuna di poterle incontrare generalmente. Non voglio esagerare, ma una volta al mese ci si vede, ci si incontra presso il seminario, ci si vede presso una parrocchia, ci si incontra a qualche altra proposta che è fatta dalla diocesi, quindi abbiamo modo veramente di scambiare le opinioni e di incontrarci, e questo incontrarci ha fatto sì, ad esempio, che molto recentemente altre due parrocchie chiedano informazioni in modo concreto, in modo pratico, su come poter aderire a noi associazione. Questo è molto importante. Benissimo, allora ti faccio un'altra domanda e poi ti vincolo ad una promessa che mi hai già fatto e sono sicuro che manterrai. La domanda che facciamo di solito ai nostri responsabili dell'oratorio quando andiamo a trovarli appunto nell'oratorio o quando appunto li sentiamo attraverso i microfoni di Blu Radio Veneto è questa: se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Ci hai pensato? Hai mai pensato di diciamo riassumere tutta l'attività che si fa in oratorio o lo stile oratoriale con un oggetto ben preciso, don Alessandro? Ma se penso ad un oggetto ben preciso mi metti un po' in crisi. Certamente penso, la prima immagine che mi viene in mente è una brocca d'acqua. L'acqua ci disseta, ci dona la vita. Nella brocca d'acqua ci puoi mettere quanto ci sta. Più molte volte ci sono brocche a metà, brocche piene, brocche che hanno tante quantità d'acqua dentro, e allora l'oratorio può essere proprio il luogo dove attingere quest'acqua, dove attingere la vita, dove attingere valori sociali, civili, culturali, cristiani naturalmente. Ecco, tutto questo può essere proprio la risposta a quella sete che oggi c'è nell'uomo e in tanti giovani, che non è vero che assolutamente che perdono tempo e basta, ma sono in ricerca e hanno bisogno di trovare persone che li possano dissetare veramente. Assolutamente sì. E allora, visto che è iniziato anche l'avvento ed è un tempo di attesa, noi appunto attraverso i microfoni chiudiamo appunto la tua disponibilità, il tuo incontro con noi in questa trasmissione. E tu ci hai già promesso che dopo, diciamo, il Natale, dopo le vacanze natalizie, avremo ai microfoni anche qualche realtà triestina, cioè tu ci fornirai, diciamo, qualche nominativo, qualche realtà. Sarebbe bello andare a visitare personalmente, ma forse all'interno di Noi Trieste si riuscirà anche a fare questo, ma sicuramente sentiremo di settimana in settimana, una volta al mese, anche una realtà di Noi Trieste che ci racconta appunto cosa fa di bello all'interno dell'oratorio, è vero? Naturalmente, ci teniamo tantissimo. Bene, allora don Alessandro, ti ringraziamo tanto, con molto anticipo ti facciamo gli auguri di Natale, con molto anticipo ti facciamo anche gli auguri di un buon anno. Noi ci risentiremo ovviamente con gli oratori di Noi Trieste probabilmente il prossimo anno, le prossime occasioni di Fuori di Noi, e quindi buon lavoro Noi Trieste. Don Alessandro, ti ringraziamo tanto per essere intervenuto. Io dico grazie a ciascuno di voi, mi complimento per il vostro lavoro, per la vostra opera, e chiedo ogni benedizione del Signore per la vostra attività e per il vostro impegno verso i ragazzi. Grazie ancora, ciao don Alessandro. Ciao. Grazie. E allora, prima di concludere, adesso mettiamo un altro brano musicale, Biagio Antonacci con Leona Lewis, che ci canta Inaspettata. E come mi guardi, e come mi cresci, e come mi arrivi, e come mi hai dato, e come sei sempre, e come hai capito. L'appello era breve, la neve era fresca, la giacca era stretta. Tu. Remember the feeling, the fire started, the rush of the moment. I stopped all the searching for reckless emotions, you were unexpected. I had to give up my senses just what we Allora, noi adesso stiamo per concludere gli ultimi minuti appunto della trasmissione Fuori di Noi, che va in onda ogni sabato alle ore 14 e domenica alle 12.30. Trasmissione dedicata al mondo degli oratori, sempre in compagnia appunto di Christian, la regia di Eddie Daici, che ringraziamo, e l'ospite protagonista appunto di questa puntata, che è stato Don Alessandro, presidente del Noi Territoriale di Trieste. Prima volta appunto che abbiamo avuto la voce del Noi di Trieste qui ai microfoni di Blu Radio Veneto. Lo ringraziamo, gli auguriamo buon lavoro. Abbiamo ricordato che ci sono tanti progetti, tante belle iniziative anche per quanto riguarda i territoriali di Padova e di Venezia. I siti sono sempre quelli: www.noipadova oppure noivenezia oppure noitreviso.it. Andate a darci un'occhiata, perché potrete magari instaurare anche delle ottime collaborazioni. Tante sono anche le convenzioni che ultimamente il Noi Nazionali sta rinnovando con enti e associazioni che lavorano nel campo nazionale, che potrebbero essere utili per sviluppare o promuovere una bella attività all'interno dei vostri ambienti. Io concludo appunto dai microfoni qui di Blu Radio Veneto e ci risentiamo quindi la prossima settimana. Senza dimenticare che potete inviarci un'email con una bella fotografia, con il racconto di una vostra esperienza, all'indirizzo fuoridinoi@libero.it. Saluto sempre la mia compagna Betta, che è al lavoro e che speriamo di ritrovare nelle prossime settimane. Arrivederci alla prossima settimana, ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.